La rete dei collettivi Nomads si incontra a Bologna per il 24, 26 e 27 aprile 2013. L'evento vuole essere un punto di informazione internazionalista dei progetti che tre gruppi che operano in Messico, Guinea Conakry e Marocco stanno sviluppando in cooperazione e supporto ai popoli in resistenza. La 3 giorni, supportata dallo spazio pubblico XM24 di Bologna, dove il collettivo è nato, si articolerà attraverso proiezioni video, mostre fotografiche, discussioni, infopoint e sarà un momento per far conoscere la nostra attività di questi ultimissimi anni. Mercoledì 24, Nomads e MRXM presentano coproduzioni dal basso, da Gaza al Messico, esperienze di rete internazionalista con teleimmagini, Nomads, Moving to Gaza, Friends, cucina e concerto. Venerdì 26 aprile, dalle 8, cena e presentazione progetti di internazionalismo e cooperazione dal basso, Nomads. Il gruppo che è in Messico ci porterà le info dal paese in lotta, ci illustrerà le partecipazioni Nomads ai progetti della Pirata, ovvero la piattaforma internazionalista per la resistenza e l'autogestione tessendo autonomia, che vede diversi collettivi europei collaborare per il finanziamento di pozzi, corsi e attività nel Chiapas. A seguire la proiezione del documentario Tessendo Autonomia, che è un'autoproduzione Italia-Messico del 2009. Il gruppo che va in Guinea Conakry ci porterà contesto storico e news da questo paese dell'Africa dell'Est. Presenterà poi il progetto Cinema Ambulant, un cineforum ambulante su topic migrazione ed esodo africano, che si svolgerà in Guinea Conakry alla fine di quest'anno. Il gruppo che è in Marocco ci porterà contenuti formativi sul paese e info dal movimento 20 febbraio e sulla strada dell'hip hop marocchino Laked, tornata in libertà lo scorso 29 marzo dopo un anno e mezzo di pene cumulative per le tematiche rivoluzionarie sui testi e l'appoggio al movimento. Sabato 27 aprile, sempre dalle 8, inizia un aperitivo mangereccio e proiezioni di autoproduzioni. Alle 11 ci sono concerti e techno. Si inizia con l'hip hop. Il Nano si porta il Rap Noise Acrobax Hip Hop Lab, dopodiché si passa alla techno con i Vortex Club, detta la Techno Shaman Music, DJ Rude Boy, Neurofunk Breakbeat e DJ Hanks che farà Acid Techno e Old School. I profitti andranno a finanziare il progetto Cinema Ambulant in Guinea Conakry. Speriamo di vedervi il 24, 26 e 27 aprile all'XM24 di Via Fioravanti, Bologna.